Tre mesi fa Giorgio Palmucci ha lasciato una carriera consolidata in una multinazionale del turismo ed è sbarcato a Padova. Ora è amministratore delegato della Tiviges Hotels and Resorts. La piccola azienda veneta ha deciso di reagire così alla crisi, investendo su un nuovo manager, rischiando invece che chiudendosi per paura. A Schio, dove si discute di imprese e crisi, c'è anche la storia della Texa, impresa che si occupa degli apparecchi per la diagnosi dei guasti meccanici alle auto. Bruno Vianello è il presidente. Si sono vendute meno automobili nuove, gli automobilisti sono andati a ripararsi di più l'automobile vecchia, quindi la crisi di fatto non ci ha creato questa disgrazia particolare, un momento quasi felice. Crisi che può aiutare e crisi che spinge a migliorarsi. Massimo Carraro è AD di Morellato e Sector. La crisi costringe a far meglio e a meno costo, ma anche a diventare sempre più globale. Su tutto, denuncia Roberto Zuccato, presidente di Confindustria Vicenza, rimane la difficoltà di reperire il credito. Le grandi banche, dice, non fanno abbastanza. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore, Schio.